causa di quel sorriso che mi fa venire i brividi ogni volta che la ricordo. So far away, so far away. So far away, so far away. So far away, so far away. So far away, so far away. El dolor que te da cuando pierdes un amor que se va y no vuelve. El dolor que me da. Venire i brividi ogni volta che la ricordo.